è la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Everybody, this is John Conley of Nuclear Assault. You are listening to Under Oath on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. Conosci il significato della parola Nemesi? La giusta e logica imposizione di un castigo terribile che si manifesta attraverso l'opera di... 10 minuti passati le 21. Personificato nella fattispecie da un terribile figlio di puttana. Benvenuti a un nuovo appuntamento di Do It Yourself Invasion. Radio Onda Rossa 87.9 in FM. I soliti inconvenienti tecnici. O fisiologici. Ricordiamo i contatti della radio partendo dal sito raggiungibile al www.ondarossa.info, sito attraverso il quale rimanere aggiornati con le varie registrazioni, corrispondenze e podcast delle varie trasmissioni, nonché potete ascoltare in diretta web andando a cliccare su Ascolta. Radio che non campa d'aria e che ha bisogno del vostro sostegno per continuare a trasmettere libera, senza padroni, senza padrini, senza pubblicità. Quindi potete sottoscrivere attraverso il sito della radio andando a cliccare su Sostieni, oppure attraverso lo storico conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestata a Cooperativa 2001, Via De Volci 56, 00185, Roma, San Lollo. Nonché potrete venire alle nostre future iniziative. Siamo in preparazione di un autunno abbastanza denso di appuntamenti. Il numero di telefono 0649 1750. Nonché l'email di trasmissione fantasma@ondarossa.info. Quindi scrivete e proponete le vostre autoproduzioni, che siano sotto forma di demo, fanzine, nel frattempo abbiamo preparato un collegamento telefonico con Giulnel. Mi senti? Bella. Bella. Che ci parlerà questa sera di un collettivo che è Dark Skies Above Us. Allora, Giulnel, ci vuoi raccontare insomma di cosa tratta questo collettivo? Bella a tutti. Allora, il collettivo The Dark Skies Above Us è nato quasi un anno fa, diciamo da una mia idea, che piano piano ha portato, diciamo, a una roba più internazionale insieme a vari gruppi dell'ambiente black metal, crust punk, ma accogliamo anche molto volentieri anche altri generi del punk. Insomma, qual era il tuo tentativo di unire quali realtà, insomma, che o era una cosa iniziata innanzitutto per il genere musicale? Sì, prima dal genere, poi per unire, come hai detto tu, innanzitutto, diciamo, anarchia e black metal, che potrebbe far storcare la faccia a molte persone, diciamo, non si sente molto parlare. Vabbè, magari c'è ancora un po' la scia di quello che purtroppo molti gruppi che facevano black metal andavano a rappresentare, quindi una sorta di nazionalismo nordico, no? Cioè, ma ce ne stanno ancora parecchie, soprattutto in Italia. Quindi la voglia pure del collettivo è di autodeterminarsi politicamente e di staccarsi in maniera totale a tutta quella scena nazionalfascista che... Di riprenderci la nostra musica. Ok, appunto, quindi se quali pensi siano le caratteristiche che vanno poi ad accomunare tanti generi musicali poi all'interno del collettivo? Vabbè, il collettivo è nato innanzitutto dal blog che si chiama The Dark Skies Above Us, dove non l'ho fondato io ma altri due compagni greci mi hanno chiesto di collaborare, e poi ho pensato di iniziare l'attività con questo collettivo. E quindi il blog, diciamo che la nostra finestra è la finestra del collettivo, quindi aiutiamo tutti i gruppi che vogliono far parte del collettivo ad uscire a pubblicare le loro, a organizzare un po' il tour, a pubblicare quello che fanno uscire, un po' di tutto. Insomma, non solo musicalmente, però c'è la voglia, insomma, di comunicare la stessa controcultura. Sì. Ok, ma dicevi prima, ci sono dei compagni greci, è un collettivo quindi internazionale? Sì, ci sono persone, perché non è fatto solo da gruppi, ma soprattutto da individui, anche da distro, chi ha da vendere il suo materiale, oppure persone che hanno altri blog, fatto da individui che vengono da tutte le parti del mondo, veramente. E insomma, mentre diciamo che è da poco uscita una vostra produzione, che è il terzo volume di una serie di compilation, sì. Ce ne vuoi parlare? Sì, quindi questo collettivo a sua volta fa parte di una grande famiglia, che ci tengo a nominare anche, che sono partiti prima di noi, ed è la Black Metal Alliance, che è nata in America da un'idea di Chase dei Defest, che è un gruppo anarchist black metal, e loro hanno cominciato con queste compilation benefit, appunto, e anche loro sono al loro terzo volume, e piano piano siamo arrivati anche noi al nostro terzo, e sono tutte compilation benefit. Noi abbiamo iniziato con il primo volume, che era un benefit per Emilio del Dordoni. Poi ne abbiamo fatto un altro per McDavid dell'F First, adesso l'ultimo e per i genitori delle 43 vittime messicane, con il progetto Caravana 43, che gli permette di andare in America a parlare un po' della loro storia. Insomma, per sostenere questi benefit, per dare un supporto a The Dark Skies Above Us, è possibile insomma scaricare la compilation? Ci vuole dare un po' di contatti? Chi vuole... Cosa, scusa? No, dico, ci vuole dare qualche indicazione su come partecipare a questo progetto? Sì, per la compilation basta andare su Bandcamp, The Dark Skies Above Us, .bandcamp.com, e si può scaricare sia gratis che facendo un'offerta. E ci sono veramente dei gruppi che meritano tantissimo, dagli Alda, che sono stati tra i primi a fare Cascadian Black Metal, ai Leper, che è l'altro gruppo dell'Iskra. Ci sono talmente tanti gruppi. E per chi vuole, chi è incuriosito e vuole far parte del collettivo, può o tramite te oppure può mandare una mail a ucollective@stronzi.org. Perfetto, insomma, poi se non avete fatto in tempo a segnare questi contatti, potete chiamarci sempre qua a Radio Onda Rossa, insomma, allo 06 491 750, oppure scrivere a fantasma@ondarossa.info, vi diamo tutti i dettagli. Mi incuriosiva insomma sapere, cioè, a livello invece italiano, com'è la risposta all'esistenza di questa realtà dichiaratamente antifascista, antisessista e antirazzista? Gli italiani, noi attutiamo il colpo sempre dopo, però siccome l'egemonia del black metal nazista può tastare, noi piano piano ci stiamo riprendendo, abbiamo la nostra scena, diciamo, abbiamo un po' di gruppetti, vabbè, il più famoso è Larva of Gram, una one man band veneta, poi c'è il mio gruppo Liu, ci sono vari gruppi che mischiano black, grind, come i Rejects nel milanese, gli Angora Coid, sardi. Piano piano ci arriviamo pure noi. Anche qua vicino, insomma, a Viterbo, gli Ostiliter, no? Sì, sopra loro ci stanno nel nostro collettivo, grandi. Bene, insomma, li conosciamo da queste parti. E allora, e che dire, io niente, comincerei insomma a far sentire qualcosa che c'è sull'ultima compilation. Uscita appena ora, e rimaniamo in Italia perché loro sono in repressione. Questi erano i Repressioni dal volume 3 di The Dark Skies Above Us. Quindi un saluto ai Crust di Bologna. gruppo di poeti di repressione, poi un giorno andremo ad approfondire il perché. Julnell, ci sei? No, mi chiedevo insomma se oltre a rimanere in contatto così attraverso il blog, attraverso la lavorazione insomma di questi benefit, insomma avete modo di incontrarvi dal vivo tra membri del collettivo? Sì, un paio di concerti insieme ce li siamo fatti con qualche gruppo, però c'è in programma una festa del collettivo. Ah, interessante, una festa del collettivo. E sì. ci sai dire qualcosa in più quando sarà? È in preparazione. Per ora rimane tutto un po' grim and false beat, un po' black metal, così tiriamo lì la bomba e lasciamola stare. Ho capito, va bene. Però sarà un festival di gruppi black metal anti-nazionalsocialisti. Perfetto, ma sai se sarà in Italia oppure? Sì, in Italia. Bene, insomma rimaniamo in contatto, ci farei sapere che siamo curiosi da queste parti. Va bene Julnell, che dire, noi mandiamo qualche altro pezzo della compilation, vuoi nuovamente invitare chi è all'ascolto insomma a partecipare al benefit e a sostenere il vostro progetto? Dai, ti lascio gli ultimi saluti. Sì. Chi vuole ascoltare così per curiosità o scaricare o donare qualcosa, il nostro bandcamp è thedarkskiesaboveus.bandcamp.com. Poi il bandcamp della Black Metal Alliance è blackmetalalliance.bandcamp.com. E chi ha un gruppo oppure ascolta crust punk, black metal o anche solo punk, oppure non so, una distro e vuole entrare nel collettivo, visto che ancora non abbiamo un sito, può mandare una mail a ucollective@stronzi.org e verrà iscritto alla newsletter. Benissimo, va bene Julnell, un abbraccio e ci vediamo presto, insomma, rimaniamo in contatto. Bomba, grazie mille davvero. Dai, grazie a te. Bella. Per aver fatto parte del nostro progetto. Eh beh, insomma, in linea insomma con lo spirito che ci contraddistingue da quasi 40 anni, dai. Oh, grazie a mille, prestissimo. Trasmissione bomba. Grazie. Saluto ai prossimi con cui parlerai, che sono dei grandi. Oh, benissimo, va bene, ok, dai, un abbraccio. Bella. Yeah. sempre dalla compilation Benefit per Caravana 43. Tutti i proventi andranno al caso degli assassini e delle scomparse, degli studenti scomparsi in Messico. A Ayotzinapa. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica dal vivo, registrata lo scorso 13 settembre a Perugia. Concerto che ha visto Patato, Jenny Wu e Placcaggio. E questo è Patato dal vivo. Si chiama Ricorda il tuo nome, scritto da poco, andrò a finire un 7 pollici con Filippo Andreani a novembre. Parlo dei miei ex colleghi di lavoro. immagina stare bene. Quando sale della festa tutta va bene, sì, tutta va bene. Oh, guarda il mio sorriso, non l'hai visto mai. Oh, guarda il mio vestito, non l'hai visto mai. Ho pianto notte e giorno sulle mie catene. Ma il vestito della festa tutta la pensi, tutta la pena. Potresti essere il vaso da regina c'è. Potresti essere l'ultimo nei suoi pensieri. Potresti avere il cuore nero come il mare. Ma ho passato della festa tutto deve andare, sì, deve andare. Non vedo più in casa da qui, solo queste montagne e l'asfalto. C'ho occupato di lei, troppo tempo ormai, c'ho tra la mia pelle, troppa strada sotto le mie schiave. E adesso apri quella riparta, me ne devo andare, fammi passare, aspetta a me, un palco di legno dove ci passo, storia triste, ma va bene così. Io voglio stare sempre per strada, ma per perdere tempo, fare tutto quello, rigare al mondo chi sono io. La vita a volte mi ha fatto a pezzi. Fammi passare, da giovane non tornerò. Prova una chitarra, prende la testa, rimane per sempre un cazzo di strada. Ma le donne in cuscino che racconta storie qua. Io adesso apri quella spada, me ne devo andare. Fammi passare, aspetta a me, un quarto di legno, poi mi ci passo. Storia triste, ma va bene così. Io voglio stare sempre per strada, ma che prendo di te, fare tutto quello che ho. Rinchiare al mondo chi sono. Te l'ha fatto a pezzi. Fammi passare, che giovane non tornerò. Non vedo più casa da qui, solo queste montagne e l'asfalto. Si occupa di me troppo tempo ormai, sopra la mia pelle troppa strada sotto le scale. Sempre in strada, voglio perdere tempo, dare tutto quel che ho. Rigiare al mondo chi sono io. La vita a volte mi ha fatto a pezzi. Fammi passare, che giovane non tornerò. Fammi passare, che giovane non tornerò. Insomma, questo era Patato live in Perugia. Dedichiamo il pezzo passato al Mastellone Nazionale. Bella Mastels. Allora, l'ultimo paio di pezzi. Una vecchia canzone del repertorio italiano di cui non mi piaceva il testo, quindi ho pensato bene di cambiarla. Noi da Patato ci spostiamo. Pistolero americano. Abbiamo redattato sul noto pistolero. A Jenny Wu, sempre presente a Perugia. Una stornellatrice canadese. con la con la passione delle ballate oe da pub. Il lento avanzare della foschia dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio. E questo è Jenny U. È mia prima volta qui. And it's amazing. Thank you guys so much for coming out tonight. This one goes out to all the punk brothers and the students. It's called Kids of the Streets. Questo era un assaggio di Jenny U. Ed andiamo a chiudere con un altro pezzo del concerto. Questa volta sono i Placcaggio da Colleferrot. Ehi! Siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Questo è Do It Yourself Invasion. E loro sono i Placcaggio. Ciao regà, questi si Placcaggio da Colleferro. Cischi, più voce nelle casse, pompa nelle casse, pompa nelle casse. Oh, mo ci siamo. Ce la fanno? Ce la fanno, dopo che ce la fanno. Allora Nadia, affrontate questo corto viaggio, questa volta da Colleferro a Perugia, e ci prepariamo a farvi sentire qualche pezzo nuovo, ma in realtà non ce ne frega un cazzo e famo quelli vecchi, tanto voi non li conoscete. Che cazzo li fate a fare? Questa è mentalità, raga, per farsi morire gallo qua dentro, Dio merda! È la solita cronaca delle nostre serate medie, che qua col buon cranio ultimamente non abbiamo più fatto, ma adesso è l'alba di una nuova era e questa è la prima serata. Cranio ancora con noi! Missione di saggio da Ziggurat in uscita a ottobre, bella! Ci sta pure l'intro tipo prog che non sapevo fare, però l'avevo registrata giusta. Yeah. ambiente tocca che vi menate ancora di più di voi. Questa è Street Fight. Insomma, sicuramente ce lo ascolteremo nelle prossime puntate. Va bene il dubbio, Vibu. Quindi Street Fight dei Placcaggio magari un'altra volta. Un altro concerto questo sabato 19 settembre al CSO Ricomincio dal Faro, via del Trullo 330 a Roma. Stand Your Ground Fest. Quindi concerto di Chaos for Cause, In O Prove, da Viterbo, Atti Vandalici, da Ostia. Barbera e Champagne, da Anguillare e dintorni. I Razza a Parte, sempre da Viterbo. Per poi chiudere da Madrid con i Rude Pride. Quindi Stand Your Ground Fest questo sabato 19 settembre al Ricomincio del Faro. E noi ci ascoltiamo i Barbera e Champagne. Se sarete dalle parti di Bologna, il prossimo 2 ottobre al circolo Iqbal, via dei Lapidari 13 a Bologna, United and Strong Night. Un concerto benefit in solidarietà a Tommy, Andre e Pippo. oggetto di misure cautelari. L'attacco a una sede fascista. E quindi dalle 21:30 concerti con in repressione. Zeman, Alga Combo, Cold the Cops. Per poi chiudere con i Contrasto. E noi dall'EP. Appunto dall'EP dei Contrasto e Kalashnikov, come il soffitto di una chiesa bombardata. E questi sono i Contrasto, a seguire i Kalashnikov. Buon ascolto. Quel giorno della P38, quel giorno della P38 abbiamo fatto l'universo, e avere la P38 era una soddisfazione enorme. Down in the hall, over cocktails I met, have one beauty rising. They look like angels sent from above. The clever girl will want to know what you mean red. The couple never think of looking that far ahead. And by the number they call for, the better I like them. e quindi dello split contrasto Kalashnikov. Andiamo a chiudere le trasmissioni di questo giovedì. Prima di lasciarvi alla compagna automatica Zara. Fu in televisione all'ora di cena. Si muoveva sullo schermo con il... Trasmissioni che torneranno in diretta domani mattina dalle ore 8 con la rassegna stampa. Vedemmo del sangue. Fu sul fondo del... Per poi proseguire con i redazionali della mattina. Verso l'uscita del supermercato. Alle 10:15 Roma a Roma. Il mattatoio faceva orario. Il giornale radio delle ore 13. Le luci restavano sempre accese. Uno spazio comunicazione alle 13:30. C'è filo diffuso. Poi vabbè. Senza genere né età. C'è un programma alle ore 14. La doppia H di Radio Onda Rossa, niente da vendere. Eppure. Silenzio assordante alle 15:30. Mai. Per poi proseguire alle 17:15 con Take It Easy. Iniziata da così tanto tempo. Non so se sono tornati i compagni delle ore di religione. Il giornale radio delle 19:30. E poi dalle 20:15 Gypsy Balkan CPT Music. Per poi chiudere con Solaris. Quindi grazie a tutte e tutti che avete ascoltato. Quindi l'appuntamento è al prossimo giovedì dalle ore 21. Il nostro abbraccio più caro a tutte e tutti coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale. Vi lasciamo con gli Zubo, a giovedì prossimo, dai!